a Bonorva c'era solo il classico e l'istituto professionale per l'agricoltura, io invece ero andato ai ragionieri, capito? I ragionieri, il posto più vicino era Coso, Macomer, però ho fatto lì 2 anni, il terzo anno poi mi ero ritirato, ci eravamo trasferiti, avevo perso un anno e poi quando eravamo, diciamo, rientrati a Sassari, avevo finito di diplomarmi a Sassari ai ragionieri. Poi invece ho fatto un anno di agraria, di scuola agraria, ho fatto un anno, poi non mi piaceva e ho mollato, capito? Ho finito l'anno, però poi non mi piaceva e ho mollato. Ma allora scuole ce n'erano, pensa che i ragionieri c'erano anche in via Pascoli, dove adesso se non sbaglio c'è il supermercato lì, prima lì c'erano le scuole, capito? Venerano in ogni dove di scuole, adesso hanno chiuso tutto. No, era più avanti, dove c'era la fabbrica del sapone. Anticamente lì c'era una fabbrica di sapone, poi hanno fatto il Masidu. Sì, esatto, lì infatti li aveva fatti mio cugino, i ragionieri, mio cugino li aveva fatti lì. Sì, anche la mia ex moglie li ha fatti lì i ragionieri. Esatto, adesso di ragionieri praticamente hanno accorpato tutto, perché poi c'era l'altro di Piazza Marconi che l'hanno chiuso, hanno accorpato tutto, adesso c'è solo ragionieri, quello di cos'è, via... dove c'era Olivieri preside, in via Montegrappa mi sa. E via Porcellana non ci sono più. Come già? Ho detto, in via Porcellana non ci sono più ragionieri. No, non ci sono più lì ragionieri. E che scuola c'è lì adesso? Non mi ricordo se c'è una tipo una scuola professionale, ma non più i ragionieri, li hanno accorpati. Tutto, prima era ragionieri 1 e 2, ma già da un bel po' di anni. E poi c'erano anche al Carmelo, c'erano, perché io lo so, perché la mia ex moglie prima era a Carmelo, poi l'avevano mandata al Masidu, l'avevano trasferiti, capito? Esatto, adesso è tutto a raccorpare. E adesso cercano di risparmiare su tutto, ma mi sembra che stanno facendo danni su danni. Poi risparmio su tutto quanto. Stanno diminuendo personale, che poi con il personale diminuito, guarda, io ho trovato al policlinico un personale veramente squisito, gentile, simpatico addirittura, perché ho anche scherzato con la rianimatrice, ho anche scherzato, ridendo, scherzando, sembrava che ci conoscevano 100 anni. Eppure è un ospedale lo stesso, però c'è un altro modo di trattare i pazienti, boh, non lo so, in ospedale civile è sopra il piano la grossa di lipidari. Infatti proprio così. Comunque se domani mattina io tanto verso le 10 solitamente accendo, se magari sento qualche chiamata o provo a chiamare già rispondo, Gianni, se hai gana di parlare, se non sempre dai dolori. E ascolta, di antidolorifico stai prendendo solo occhi. Me ne ho dato anche un'altra pastiglia, ma non mi faceva nulla. Ho fatto anche le iniezioni, voltarono i muscoli, non mi hanno fatto un cavolo. L'unico che mi fa un po' bene è l'occhi ancora. Io vorrei sempre evitare di prenderlo, solo che poi se evito di prenderlo di giorno, di notte non dormo, mi vengono dolori atroci da non poter resistere, da gridare, cioè dolori fortissimi che io non mi ricordo di aver provato con l'altra gamba che ho operato lo stesso. Però questa volta io ho una cosa allucinante. La mia compagna si preoccupa, mi dice non gridare, non fare così, dai, cosa faccio? Se mi fa male, un male tremendo, non riesco a resistere, io solitamente resisto al dolore, ma credimi, sono atroci i dolori, come se ti morsicassero qua. Già lo immagino. Io come antidolorifico, per questo piccolo intervento che ho fatto, mi hanno prescritto le gocce di Toradol per 4 giorni, dovevo prenderne 10 la mattina e 10 la sera, capito? Per 4 giorni, e poi tachipirina 1000, lo stesso, una alle 14 e una alle 22. Ero una settimana che stavo buttando giù medicine a nastro, poi mi hanno prescritto il Daflon, il paracetamolo, poi un altro coso fare le feci più morbide, capito? A ogni ora c'avevo una medicina, però senza l'antidolorifico in effetti non puoi stare i primi 3 giorni. No, ma anche le pari la stai facendo? No, quella no, fortunatamente. Perché a me me l'hanno fatta fare, la volta che io mi sono operato la gamba me l'hanno fatta fare. E adesso fanno diverse cose, adesso ti richiedono anche le calze per il trombo, antitrombo, prima non le mettevano queste qui, la borsa del ghiaccio, calze antitrombo, insomma tutta la roba che ci vuole, dai. Sì, no, le farina mia moglie l'aveva fatta 2 volte, perché lei si era operato il menisco, prima un ginocchio e poi l'altro, capito, perché ce le aveva fuori uso, aveva dolori anche lei. Addirittura per salire in macchina si doveva portare su lei la gamba perché non ci riusciva. Aveva fatto prima uno e poi l'altro. E io faccio lo stesso così, poi mi attacco al tettuccio della macchina e mi sollevo, perché sennò sotto al sedile non ci passo, che rimane rigida. Speriamo, dai, che ti chiamino quanto prima, se non altro risolvi almeno coi dolori, capito? Poi pian piano già recuperi. Sì, quello sì, anche con l'altra, grazie a Dio, ho recuperato al 100%. Natalino, avanti. E mentre voi stavate chiacchierando amabilmente, sono arrivate le pizze qui e l'ho quasi finita di mangiare. Cappa, bene meda. Appetito allora, Natali, mangia tranquillo. Ma non te la fa salire la glicemia la pizza, Natali? Oh, guarda che io la notte ne faccio 6 unità solo di insulina. Io non ce l'ho grave come ce l'hai tu, già. E io, c'è sempre carboidrati, cosa c'è tra quello? Carboidrati c'è un bel, perché la pizza c'ha un bel di pane, di pasta, di pane. Quindi per quello a me mi sa dare in picco. Se io mangio la pizza, se io mangio normale, posso anche non prendere nulla, perché io ce l'avevo 93, 102 al massimo. In questi giorni che sto mangiando tutto normale, senza primo, senza mangiare pane, normale, oddio. A stecchetto, dai. Io qui. Vabbè. Però a me non mi sale così molto. Lo so. Anche a me all'inizio era così, prendevo solo le pastiglie, non mi saliva, poi di colpo ha cominciato a salirmi e mi hanno dato piano piano l'insulina da fare. E vabbè, ci conviviamo, Natalia, già devi va, tanto, non puoi fare altro. Io già lo so. Questa storia a regime. Ehi, una prigione questo diabete. A me non me l'hanno tolta quella della notte perché prendo troppi farmaci e siccome avuto quello che ho avuto ha detto meglio che la faccia quella della notte e me la faccio, se non mi voleva togliere anche quella. Perché magari tu ce l'hai in forma leggera dovuta all'operazione, basta. Comunque mi ricordo che tu un periodo mi avevi detto che ce l'avevi un po' alta, infatti ti avevo detto fai la curva da carico, te lo ricordi un bel tempo fa? Infatti ho fatto la curva da carico e era tranquilla la situazione, perché io ero predisposto, lo tenevo, siccome erano tutti diabetici, e allora tenevo per quello io, forse che mi veniva. Lo so. Vabbè, anche mamma era diabetica, quindi. Quando così siamo predisposti. Mamma se l'ha preso da grande, dopo che mi ha partorito si è preso il diabete. Anche mamma se l'aveva preso da grande. Poi tua madre è sempre in mezzo ai dolci, cavolo, magari mangia con me di dolci, poi parli con la mortadella, ui! Se mi dici dei dolci non ne mangiava. I panini con la mortadella sì, però dolci proprio non è che ne mangiava, era sempre in mezzo. Vabbè, capito Carlo, è così, il diabete bisogna stare sul chi va là sempre, dai, bisogna stare attenti, io mi controllo, sempre ogni 6 mesi faccio tutte le analisi, faccio l'elettrocardiogramma, ricontrollo gli occhi, l'oculista. insomma faccio un po' di tutto, capito? Analisi del sangue, mentre controllano tutto, colesterolo, eccetera, eccetera. E anche a me li fa fare quei controlli, la diabetologa. E tutti te li fanno fare perché il diabete è maledetto, va in circolo e praticamente rovina tutti gli organi. È una bella lagna, già lo so, anche mio cognato è così, anche lui lo stesso si dovrebbe operare perché pesa più di 100, ha problemi adesso a camminare, gli hanno detto che deve calare un po' di peso, poi anche altri problemi, ma quello che gli crea più problemi di tutto il diabete, capito? Perché a lui piaceva mangiare, da quando poi ci è diventato diabetico e per lui è una lotta col cibo. A me il dottore mi ha detto, ascolti, io dico una cosa, a lei le piace mangiare, perché se lui riesce a fare la dieta, io le tolgo tutto, non le faccio prendere nulla. Però se lì non ce la fa fare la dieta, io ci ho provato a fare la dieta e credimi, non ce l'ho fatta. Mi veniva la fame di notte, mi venivano i crampi allo stomaco, mi dovevo alzare di notte, una volta mi è venuta una crisi tipo, cosa ti posso dire? Una crisi nervosa, non lo so, e mi sono svuotato tutto il frigorifero. La fame è una brutta bestia, capito? Purtroppo è un compromesso che devi fare, capito, con il diabete così. Però non è detto, ci sono, per dire, anche ragazzini giovani che ci nascono così e magari non hanno mangiato dolci, è una predisposizione, una questione genetica, secondo me, questa cosa del diabete. Sardi, per diabete e microcitemia sono proprio a livello alto. Però quello da bambino è ancora peggiore, quello è tipo 1, quello fu curato, non possono mangiarsi manco le caramelle, i cioccolatini, che i bambini di solito quando vanno alle case non vogliono il cioccolatino, capito? Non possono mangiarli. Oh già, raccontali cosa avremmo visto allo Drisbar e cosa da giudizio. E un giorno sono andato al CAF lì in via 4 novembre, no, con Natalia ho detto io che andiamo al Prisbar a berci un caffè. Entro al Prisbar e ho visto questa bancata, ma lunga, proprio una vetrina grande, tutta piena di paste, mi stavo venendo il coso di mangiarmeli tutte, ma trattenuto la tarina, se no non mi rimaniamo tutti. Ma io ho visto che ce la stavo guardando, mi correttevo qua, bevi di zucchero con la crema, tirando i tuoi seri a pezzi con te. Quella roba, a dire cosa c'è qua, ti stavi lanciando quindi già. No, praticamente vi siete sovrammodulati e non ho capito nulla, né di uno né dell'altro. E io gli ho detto, come lo vi sto guardando, gli ho detto, tira dritto che sei diabetico tu. Carogna, c'erano quelle frittelle con la crema, quelle che piacciono a me, mamma mia, voi mi fate. Io l'altro giorno, per dire, quando sono uscito da fare gli esami, sono andato a fare gli esami, siccome mi hanno fatto fare il pre-ricovero, e ci sono stato tutta la mattina lì, non ho mangiato, non ho fatto colazione perché era digiuno. Quindi dopo che ho fatto le analisi del sangue, dovevo fare le altre analisi, perché facevamo le analisi, i raggi, eccetera, e poi ritornavamo su, ci dicevano dove dovevamo andare. Io prima di andare lì ho fatto una scappata, c'è il mare in via l'Italia di fronte e mi sono preso un cappuccino e una frittella, me la sono mangiata, tanto le analisi le avevo già fatte. E niente, e poi sono ritornato, come sono ritornato, che se non ero qua? Io ho detto io, allora entri dentro che dobbiamo fare l'elettrocardiogramma. Già sei bravo già. Prisbar è pericoloso perché mettono sempre quella bancata quando ci sono eventi, tutta apparecchiata, quindi tu entri a prendere il caffè, invece ti giri sulla destra entrando e vedi tutto quello spettacolo di roba, ti stavi lanciando, scommetto. Carlo, lo sai che a me c'era un periodo che mi venivano le crisi, mi fermavo nelle pasticcerie e compravo due cornetti, due ciabatte, e due frittelle me le mangiavo tutte e quattro. Purtroppo è così. Ma i dolci li prendi, ma devi fare poi, cosa devi fare? L'insulina? Praticamente i dolci non dovresti mangiarli perché ti fanno salire la glicemia. Se tu ti fai l'insulina invece che prendere e fartene 10 o 12, se te ne fai 30, se hai mangiato i dolci e te la fa abbassare, però non è giusto che sia così, deve essere bilanciato sia la roba che mangi con l'insulina che fai, capito? Ho capito, e mio cognato infatti ogni tanto lo vedo mangiare i dolci, no, dice già, poi già mi prendo, lui è anche medico, capito, e quindi già si sa regolare, capito, però qualche dolce lo mangia, ho visto. Ma a me il dottore sai cosa mi ha detto? Una volta alla settimana si può fare anche lo sgarro, ma poi il resto della settimana Ramadan. E purtroppo è così. Vabbè dai, è importante tirare avanti e il morale è sempre alto. E magari si riesce a star tranquilli comunque. Infatti bisogna sapere come vivere, io all'inizio l'ho presa male, però non riuscivo a capire il perché, per come fosse successo proprio a me, capito? E purtroppo poi ho dovuto rassegnarmi e ci sto convivendo e riesco anche a regolarmi da solo, mi regolo anche l'insulina, quando è più alta la faccio più alta anch'io e grazie a Dio sto andando sempre bene, capito? Adesso che sto facendo una dieta ferrea, perché poi se mi devono operare mi rimisura la glicemia, se c'è l'alta non mi operano, capito? Gianni, domani siccome tu hai detto che una volta alla settimana se siamo trasgrigni andiamo a trasgrigni. Cosa? Non andiamo domani a trasgredire, hai detto che una volta alla settimana possiamo trasgredire, così venga anche e ci mangiamo tutti i grigioli che ci appena. Ma se diamo volte il trattore ci vedo. Mi è capendo ed io manco bani mangio, ma non so la glicemia. E anche io non ne mangio di pane, oggi ho mangiato una spianata, ma di quelle piccole, spianatine piccole. Perché bisognava bagnarlo e c'era il sughetto del coso, del peperone che mi piace, e quindi non potevo lasciarlo. Natalino ieri ha mangiato cose prelibate, però ha fatto cattivo. E io cosa ho fatto cattivo? Ho fatto di quelle melanzane, le ho fatte tipo caramella, no? Belli gunditi, al forno, e poi un po' di zimino. E io già le ho viste, non me le mandate. Ah, già me le già te le mandate, le melanzane. Ma lo sai, un tuso buono che fatti così, parla. Oh Gianni, ma cosa stai confessando tutti i peccati tu? E allora, ma sono peccati di gola, conce, non sono peccati grossi, dai. Uno la risa nelle capanna, a chi da ridere mai fa? Peccato mortale, quello è... Ma che è peccato mortale, il peccato di gola? Ah. Cosa? Boh, allora ti comprendo un dato. Che ti hai detto già? E comunque già ti vedo, lo liquidi da finestra, guarda Zuzzi, che voglia... Guarda, io Carlo non ero abituato a mangiare molti dolci, a casa si prendevano i dolci solo quando c'è la festa, capito? Di solito ci sono case che li prendono sempre i dolci, capito? Li prendono pasta e cose, a casa solo compleanni, queste cose qua si mangiavano i dolci, ma io non ne cercavo, adesso che sono diabetico i dolci cazzo li desidero in una maniera spropositata tutto. Vabbè, purtroppo è così, non ci si può fare altrimenti, quindi o le guardi in vetrina oppure fai un po' di sacrificio, li mangi una volta alla settimana e basta, bisogna trasgredire ogni tanto, dai. Io glielo prenderò lì i pasticcini a mia moglie, no? La domenica, però ne mangiavo tre soli, ne mangiavo così, no, ma non mi facevano niente, se ne mangiavo tre soli non mi facevano salire la glicemia. Cesu, se mi ne mangiavo una zaffata è logico di sì. Iaia, ma lì un giorno mi dai la ricetta di queste melanzane caramellate. No, caramellate perché le faccio come una caramella, amico, la carta stagnola le faccio. Li drappino e le tagli tutte le melanzane, le apri a metà. E poi ci metti molto condimento, olio, aglio, prezzemolo e peperoncino. Le chiudi a caramella. Guarda, quando sono cotte, oppure anche alla brace le puoi fare. Quando si abbassa la carta stagnola sono cotte. Tranquillo che pare mangi di cervello. Chiaro credo, così sono buone sì. E io le facevo in piccola così. Quando andavamo a fare le scampagnate con gli amici e cose, andavamo dove c'erano quei posti che si può arrostire, eccetera, le banche, eccetera. E le facevamo sempre, facevamo il pesce al sale, e poi le orate al sale e poi quelle lì, e poi il pane con l'olio e il sale arrostito. Oh mamma mia, che era buono. Adesso mi state facendo venire fame con tutta questa roba buona. E poi la roba fatta in graticola è sempre meglio, puoi fare il pollo, è sempre meglio che farlo integrare a casa, solo il sapore che c'ha è una cosa diversa. Per forza. Io per anni, quando vivevo a Bonorva, avevamo il caminetto e tu non sai cosa tutto ci facevi, le cose, le prelibatezze più strane, dal sanguinaccio di maiale, quello dolce, no? Fatto con l'uva passa, il sangue, ci mettevano il liquore in mezzo, l'arancio candito, di tutto. Tu lo facevi nel forno, era buono ma non era, ma se lo mettevi nella griglia, nella brace, non ce n'era. Quello, la salsiccia fresca, oppure scaldavi noi lo chiamavamo cogonel de Elda, capito, con le noci, l'uva passa, anche quelle, e la glassa sopra di zucchero, no, le mettevi nella griglia e diventavano soffici, mamma mia, che cose buone. Oppure la carne con il lardo che è sciolto, che lo passi sopra, c'è molto buono. Cose buone ce n'è, però poi se ne facciamo tante ci fanno male, e quindi bisogna regolarsi. Allora, io una volta sono andato a Cossoline, perché il supermercato dove lavoravo io, che tra l'altro lo facevo l'autista, andavo a prendere gli agnelli e cose per poi macellarli, no? E praticamente sono andato alle 7:30 di mattina a Cossoine e ho trovato i pastori che stavano mangiando salsiccia, formaggio e bevendo vino. E quando me ne sono andato, mi già, questo qui l'acqua vite per il viaggio, e te se mi bevo questo boccione di acqua vite non mi trovano più. Oh, già lo credo. Bene signori, si è fatto tardi, grazie delle quattro chiacchiere, ma sono le 8 e mi è venuta fame parlando di queste cose buone. Ce la risentiamo se ci siete più tardi. Ciao Natalino, ciao Gianni, e alle prossimine. Gianni, domani mattina se hai gana di parlare, fai chiamata intorno alle 10:30, già sono acceso. Va bene, ok Carlo, dai. Ciao, ci sentiamo, speriamo di star bene. Adesso sto bene perché ho preso l'antidolorifico, ma sto meglio, dai, diciamo, non bene, perché il dolore è sempre fisso, ma è più leggero, dai, si può sopportare. Va bene caro, dai, grazie per il questo, ci sentiamo, avanti Natalino. Ok, dai, buona cena Carlo, grazie per essere entrato e per le quattro chiacchiere, dai, ci sentiamo domani al limite, se ci sei. Già ci sentiamo, già ci sono pure io domani mattina. Yeah, bene mera, grazie anche a voi delle quattro chiacchiere, alle prossime, ciao, buonanotte. E dai, me ne vado anche io, dai, ciao Natalino, me ne sto andando perché devo andare a ordinare la pizza, dai, mi hai dato un'idea. Adesso vado io e me la ordino anch'io, dai, così almeno non devo fare nulla a cena. Andare, ci sentiamo Natali, stavi bene, tante cose belle, magari ci sentiamo domani mattina, dai, se ce la faccio sempre, non vi prometto nulla perché secondo i dolori io non è. Va bene, dai, ci sentiamo. Gianni, ascolta, adesso confessa il peccato con me, ma la sfiannatina era sfiannatina o sfiannata grande? No, piccolina. Ha detto che si fida. Vabbè, dai, ciao già. Comunque ciao Gianni, a domani. Ci sentiamo domani se ci sei, dai. Buona notte e buona cena. Ciao Concia, ciao Natalino, ci sentiamo, dai, ciao.